se tu sapesse dicere. Ah, se potesse dicere quello che il cuore dice quando si arriva felice, se tu sapesse di. E se potesse sentire quello che il cuore sente, dicesse eternamente voglio restare con te. Ma il cuore sape scrivere. Il cuore è analfabeta, è come un poeta che non sa cantare, s'imbroglia, sposta e virgola, un punto ammirativo. Mette un congiuntivo a dove non c'ha da sta, e tu che stai a sentire, t'imbrogli a pressa, isso come succede spesso, e addio felicità.